2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. 2024. 2024 di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi la puntata del 3 e 4 agosto 2013. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Potete comunicare con noi anche via Facebook, via Twitter, @e_Pagliarini. Oppure con altre modalità, potete anche scriverci o telefonarci direttamente nella vecchia maniera analogica, direttamente nei nostri studi. Questa è la settimana preferita dagli hacker, sia quelli buoni che quelli cattivi. Ci sono gli hacker normalmente considerati smanettoni che cercano di capire come cambiare le cose, inventarsi cose per il futuro. Ci sono i malicious hacker, quelli che invece vogliono scassare le cose per combinare guai. Allora, dicevo, questa è la settimana preferita dagli hacker perché a Las Vegas si è appena chiusa la Black Hat Conference ed è in corso DEF CON, una conferenza molto importante per tutto il mondo della security. In Olanda è in corso HOM 2013, come dice il sottotitolo, For Hackers and Makers. E naturalmente i nostri esperti sono quasi tutti, almeno quelli che conosciamo noi, a queste conferenze. Quando torneranno nei prossimi giorni, poi li interrogheremo per sapere che cosa c'è di nuovo. In ogni caso, alcune notizie sono uscite, anche se non ci sono notizie eclatanti. A queste conferenze, ma non solo, a queste conferenze emergono in questi giorni nuove preoccupazioni ed allarmi per la fragilità con cui molte infrastrutture digitali sono costruite. In un mondo dove il pericolo che le nostre comunicazioni siano intercettate e analizzate cresce, la necessità di usare la crittografia per proteggere queste comunicazioni. Bene, alcuni esperti, in particolar modo in una di queste conferenze a Las Vegas, hanno sollevato alcune preoccupazioni sulla tenuta degli attuali algoritmi di crittografia nel medio periodo. Nuove scoperte matematiche e soprattutto la capacità di calcolo sempre più potente forniscono a chi deve bucare un messaggio cifrato nuove possibilità. Ne sanno qualcosa sicuramente le agenzie di intelligence, e su questo tema abbiamo letto, scritto e detto molto nelle ultime settimane. E comunque stiamo parlando di un concetto piuttosto semplice da capire. Immaginate di usare un lucchetto che ha una combinazione numerica, come quelli magari delle valigie. Allora, se i numeri sono pochi, 1, 2 o 3, insomma, indovinare la combinazione può anche essere abbastanza semplice. Se la combinazione è di decine di numeri diventa piuttosto complesso, ma i grandi calcolatori sono oggi in grado di tentare tutte queste combinazioni in poche ore, e quindi c'è una rincorsa infinita tra chi crea sistemi robusti per proteggere le comunicazioni e chi cerca invece di bucare queste comunicazioni. Ma visto che i sistemi per bucare, per scoprire la combinazione con cui viene protetta la nostra comunicazione, sono sempre più potenti, alcuni esperti parlano di cryptopocalypse, cioè di apocalisse della crittografia. Questo è un tema su cui torneremo. Il Guardian, a proposito di comunicazioni sniffate, il Guardian ha appena pubblicato ieri nuove rivelazioni di Edward Snowden, secondo cui 7 compagnie di telecomunicazioni, fra cui le britanniche BT, British Telecom, Vodafone, l'americana Verizon, collaborano in segreto con l'agenzia di intelligence del Regno Unito, GCHQ, nel progetto di spionaggio delle comunicazioni internazionali che coinvolge anche l'americana NSA. Le altre 4 compagnie di telecomunicazioni sono meno note, sono note solo agli addetti ai lavori, perché si occupano soprattutto di grandi collegamenti sulle grandi dorsali o servizi a grandi società, grandi aziende. Si chiamano Global Crossing, Level 3, Viettel e Interroot. Sono società molto grandi, sulle loro reti transitano gigabit, terabit di dati, quindi o meglio terabyte e terabit, dipende da come li misuriamo. Comunque, che sia vero o no, perché naturalmente su questo non potremo mai avere conferma, verificare questa informazione, questa notizia è un ulteriore invito a utilizzare sistemi protetti. A questo punto uno potrebbe però dire: quanto sono protetti questi sistemi? Però se vogliamo aggiungere un'altra notizia recente, parliamo di Volkswagen, la casa automobilistica, che si è rivolta alla giustizia britannica per bloccare la pubblicazione di una scoperta fatta da tre ricercatori, uno dell'Università di Birmingham, due di Rabaud in Olanda, che avrebbero scoperto come craccare l'algoritmo che identifica le chiavi che fanno partire l'automobile. Quando noi entriamo in automobile c'è un chip che confronta un dato e dice sì, questa è una chiave buona, quindi quando giri la chiave la macchina si accende. Allora, la Volkswagen sostiene che la pubblicazione di questa ricerca fornirebbe preziose informazioni alle bande di ladri più sofisticate per, appunto, rubare un'automobile. Quindi per il momento questa pubblicazione è stata bloccata. Però certo, un minimo di preoccupazione, anche se naturalmente stiamo parlando di tecnologie molto sofisticate che richiedono competenze molto evolute, quindi non è che il ladro, il classico ladro d'automobile, riesce a fare una cosa del genere. Torneremo sicuramente a parlare di questo argomento molto interessante, molto importante, soprattutto per la protezione delle informazioni di proprietà intellettuale, soprattutto delle aziende. Torneremo a parlare, adesso invece ci occupiamo di un nuovo smartphone che è stato presentato negli Stati Uniti, c'era molta attesa, alcuni dicono forse un po' esagerata, un telefono che ascolta sempre, Always Listening Google Phone, il nuovo Moto X di Motorola. Sapete che Motorola è di Google. Abbiamo parlato con Carolina Milanesi, che è vicepresidente di Gartner, uno degli analisti più attenti all'evoluzione mobile dell'elettronica di consumo. Sì, è stato interessantissimo vedere quanta eccitazione ci fosse intorno a questo prodotto. Secondo me più intorno a vedere che cos'era questo nuovo frutto, no, della collaborazione tra Google e Motorola, che non necessariamente per il prodotto in se stesso, ma più per quello che il prodotto rappresenta, per cercare magari di capire dove Google vuole andare. Sicuramente come Motorola, come brand, non siamo più alla Motorola del famoso Razor, ma visto anche la tranquillità, diciamo, dei numeri di prodotti che sono arrivati, che fino a settimana scorsa, quando è stato lanciato è stata lanciata la nuova linea dei Droid per Verizon, non avevamo visto un prodotto della Motorola diverso da un po' di tempo. Quindi sicuramente la brand non più ai livelli del Razor, ma forse ancora con quella un po' questa nostalgia, specialmente per gli utenti americani, di una brand che è americana e l'ultima rimasta, e quindi un pochino così di sentimentalismo legato alla brand. Stiamo parlando dell'ennesimo Android, o effettivamente c'è qualche caratteristica che lo distingue un po' da tutti gli altri? Una cosa che si dice spesso è che molti telefoni Android siano uguali, c'è una grande frammentazione di prodotti Android, a parte alcune chicche, alcuni prodotti anche molto molto costosi. In questo caso, come telefono per se stesso, le cose che sono state evidenziate di più, la prima cosa è la voce, è come si usa la voce per navigare il telefono e per attivare le funzioni del telefono, quindi senza doverlo toccare. E poi le altre due cose, uno, il made in USA, che onestamente dal punto di vista del consumatore non so se preferiscono made in USA o $100 di sconto sul telefono perché è fatto in Cina. Certo. L'ultima cosa, il discorso di poter personalizzare il retro del telefono, quindi puoi andare per quei telefoni che sono venduti su web, puoi andare a decidere il colore piuttosto che il disegno di quello che vuoi sul retro del telefono. Queste sono le tre cose, diciamo, che lo differenziano dagli altri, ma cose a parte il retro del telefono, che abbiamo visto anche sui Droid della settimana scorsa. Quindi molto personalizzabile, e poi con questa caratteristica di cui si è discusso molto, cioè di questo telefono che è sempre in ascolto, pronto per sentire, ad ascoltare un comando vocale del proprio proprietario. Si è capito da questo telefono la strategia di Motorola? Da tempo si discute su la seconda vita di Motorola, che ricordiamo è stata acquisita da Google, e molti si domandano: ma che cosa se ne farà di questa azienda? Diventerà l'azienda che farà i migliori Android, facendo magari anche arrabbiare gli altri partner, a partire da Samsung e tutti gli altri che utilizzano Android? Si è capito qualche cosa in più? Non so se è necessariamente l'Android migliore che vediamo, perché per esempio come prima cosa noteranno gli ascoltatori che non è l'ultima versione del sistema operativo che avrà questo telefono, c'è ancora Android 4.2 invece del 4.3 che è stato lanciato la settimana scorsa. Quindi non è, diciamo, il migliore Android, ma secondo me sarà la migliore esperienza Google. E quindi vediamo uno shift tra l'attenzione alla piattaforma per sé, quindi al sistema operativo che c'è dentro il telefono, a un'attenzione più al pacchetto totale, quindi al discorso delle applicazioni che hai di Google, all'esperienza che hai di Google e la parte del sistema operativo. Non a caso questa nuova attivazione vocale che il Moto X ha viene sbloccata con Google Plus. Rimane tuttavia un dato che si conferma, cioè la grande frammentazione di Android e pochissimi smartphone che spiccano in questo ambito. Per quanto riguarda il Moto X, per il momento Motorola, Google non hanno dato informazioni sulla uscita sul mercato europeo, quindi non sappiamo se questo telefono arriverà in Italia e quando. Per il momento si parla solo dell'America, tutta l'America, Nord, Centro, Sud America. Parliamo di Cisco, che ha lanciato un contatore, il Connection Counter, per visualizzare gli oggetti che sono connessi alla rete internet. Secondo Cisco oggi ci sono 80 cose che vengono commesse alla rete ogni giorno. Il prossimo anno saranno quasi 100 al secondo le cose connesse, entro il 2020 saranno 250 al secondo. Secondo i calcoli della società, oltre 50 miliardi di oggetti saranno connessi entro il 2020. Vabbè, precisi o no che siano questi dati, comunque ci danno un'idea dell'evoluzione della rete internet. Alla fine di quest'anno dovrebbero essere circa 10.000, all'inizio erano solo i computer le cose connesse alla rete, oggi ci sono miliardi di telefoni, una lista di cose molto lunga, sensori di qualsiasi tipo nelle città, videocamere, un numero crescente di macchine che sono connesse tra di loro, non parliamo di automobili, parliamo di macchine, di strumenti che sono connesse alla rete internet. Stiamo parlando di una cosa che alcuni tecnici hanno da tempo definito Internet of Things, e Cisco, visto che ha un buon marketing, ha ribattezzato Internet of Everything, quindi la Internet di tutte le cose, perché effettivamente con la miniaturizzazione dei chip, la miniaturizzazione anche dell'energia, quindi di batterie sempre più piccoline, beh, possiamo immaginare di connettere, e sarà molto probabilmente così nei prossimi 10, 20, 30 anni, di connettere tutto, quindi Internet of Everything. Si occupa di questo tema attraverso i chip anche un'azienda italiana che si chiama Telit, che si occupa di un trend molto interessante che è il machine to machine. Saluto Sandro Spanghero, che è il direttore della ricerca e sviluppo di Telit. Benvenuto a 2024. Buongiorno, grazie a voi. Quando parliamo di comunicazioni machine to machine, quindi tra macchine, che rappresenta proprio lo scenario prossimo e l'esplosione di questo mercato nei prossimi anni, parliamo di comunicazioni che possono avvenire anche tramite la rete internet tradizionale, quindi via cavo, e direi che il primo esempio di machine to machine è proprio la internet stessa, computer, server che sono collegati tutti tramite rete fissa via cavo. Voi vi occupate in modo particolare di soluzioni wireless, senza fili, sicuramente le comunicazioni cellulari, quindi l'infrastruttura cellulare rappresenta una base di partenza molto interessante. Possiamo fare alcuni esempi di soluzioni, di servizi che già magari esistono oggi o che ci saranno nei prossimi anni che si basano su questa comunicazione tra macchine, machine to machine? possiamo trovare questo tipo di comunicazione, anche se magari non ce ne rendiamo conto, nei distributori automatici, possiamo trovarla negli antifurti che abbiamo a casa, no? Possiamo trovarla all'interno delle nostre autovetture, o possiamo trovarla nel sistema remoto di comunicazione che i contatori elettrici oppure i contatori dell'acqua o del gas hanno o avranno in futuro per permettere la distribuzione a rete di tutte quante le utenze. In qualunque posto in cui è necessario controllare oppure monitorare un qualsiasi dispositivo, possiamo trovare questo tipo di tecnologia applicata. Spanghero, rimanga con noi, riprendiamo tra un minuto. 2024. Stiamo parlando di uno dei grandi boom dei prossimi anni, le comunicazioni tra oggetti, tra macchine, tra cose che magari indosseremo, che comunicano tra di loro e comunicano con la rete internet. Il cosiddetto machine to machine, M2M. Ne stiamo parlando con Sandro Spanghero, che è il direttore della ricerca e sviluppo di Telit. Spanghero, questi strumenti significa che hanno a bordo una SIM dati, una SIM come quella che noi abbiamo nel telefonino, che permette a queste macchine di parlare con la rete internet, parlare tra di loro. Nella maggior parte dei casi sì, non necessariamente tutti quanti devono avere una SIM interna, perché ci sono degli esempi in cui ci sono più sistemi di comunicazione che fanno parte della stessa catena. Alcuni di essi si appoggiano a rete cellulare, altri invece si appoggiano a reti non cellulari che non hanno bisogno di nessuna SIM. Sì, quindi magari hanno un hotspot Wi-Fi e poi vanno via rete tradizionale. Attraverso un convogliatore vanno su una rete tradizionale. Sì. Lei ha citato i distributori automatici, questo è un bel esempio, anche molto simpatico, perché molti distributori automatici di bibite, di merendine, eccetera, eccetera, comunicano con il gestore, dicono: guarda che sono rimaste solo 3 bottiglie d'acqua o 3 lattine di bibita, vieni a rifornire, oppure sono rimasto senza, quindi manda un allarme perché possono venire i rifornimenti. Ad esempio, buona parte degli impianti che irradiano il segnale di Radio 24 sono telecontrollati anche con questi sistemi, quindi noi sappiamo secondo per secondo qual è lo stato delle nostre antenne. Ha fatto tanti altri esempi e sicuramente ne potremmo fare tantissimi altri. Una cosa che mi sembra interessante, sulla quale mi pare che ci siano focalizzate le ricerche, è quella del cosiddetto tracking, cioè il tracciamento di automezzi, autoveicoli, ma non solo autoveicoli, in giro per il territorio. Ecco, ci spiega un po' l'evoluzione di questo settore, che cosa si fa già oggi e quello che si farà nei prossimi anni. Sicuramente sappiamo, insomma, che ci sono molti autoveicoli di servizio, dei distributori di pacchi, eccetera, eccetera, che sono effettivamente tracciati da una centrale, che sanno minuto per minuto dove si trova l'autoveicolo, che insomma, anche i mezzi pubblici sono, gli autobus sono tracciati e ci sono le centrali di controllo che sanno dove si trovano i mezzi pubblici in quel preciso istante, sanno qual è la temperatura dell'olio del motore, insomma sanno tutto dell'autoveicolo. Ma in generale che cosa sta succedendo? Il tracking è una categoria di questo mercato che è estremamente importante, vorrei dire che forse è il 50% del mercato, no? Ed è una categoria che sta crescendo più velocemente del mercato. Tracking vuol dire molte cose, la cosa più banale è riferire la posizione in cui si trova un certo oggetto, e l'oggetto può essere un container che va in giro per il mondo, oppure può essere un pacco che viene distribuito da un vettore, oppure può essere l'automobile o uno dei camion di una flotta di distribuzione. Questa è una delle utilizzi del tracking. L'altro è quello di fare una gestione dell'autoveicolo, no? Controllare lo stato di manutenzione, controllare lo stato del motore, controllare lo stato dei sistemi di sicurezza del veicolo e verificare che non ci sia niente di anomalo all'interno del veicolo stesso, no? E un altro tipo di utilizzo che noi abbiamo in macchina, a cui siamo abbastanza abituati, è quello di sistemi di infotainment, no? Anche qua e cioè di intrattenimento all'interno del veicolo. Anche qua è un settore che si sta espandendo e dal nostro punto di vista questo settore sarà uno dei primi a utilizzare tecnologie a bande larghe, cioè a capacità di comunicazione veloce, che tradizionalmente non sono propri di questo mercato, ma per questo specifico settore diventeranno importanti. Stiamo parlando di un settore che ancora nella maggioranza dei casi per il consumatore, per l'utente normale, non è ancora stato abbracciato da queste tecnologie. In ambito industriale e commerciale sì, perché ci sono molti mezzi di trasporto che sono tracciati con questi sistemi, però la nostra automobile non ancora, quindi non ancora, siamo vicini. Noi stiamo lavorando adesso su applicazioni che saranno sul mercato nel 2015-2016 e tutti quanti i costruttori di automobili stanno andando in questa direzione, questo settore sarà estremamente importante. L'ultimo, sempre nell'ambito del tracking, è quello legato alla sicurezza. Esempi come i call sono fondamentali, la possibilità di avere un allarme immediato nel caso di incidente e la possibilità di far arrivare questo allarme in una centrale di controllo in cui si conosce la posizione dell'incidente, il tipo di incidente, il tipo di automobile e quello che è successo magari negli istanti precedenti all'incidente, può portare i soccorsi in maniera molto più immediata sul luogo dell'incidente, garantendo anche una maggiore sicurezza per chi viaggiava in automobile. Sì, ricordiamo che e-call, scritto e-call con due L, e-call, dove sta electronic call, emergency call, mettiamola come vogliamo, è un sistema previsto dall'Unione Europea, obbligatorio per tutte le automobili a partire dal 2015, che automaticamente in caso di incidente fa una chiamata d'emergenza e comunica una serie di dati alla centrale, quindi il tipo di automobile, targa dell'automobile, dove ci troviamo e che tipo di incidente è successo. Con una serie di sensori che ci sono a bordo dell'automobile, la centrale viene informata e quindi i soccorsi dovrebbero arrivare in modo più preciso e anche in modo più rapido. Questi sistemi utilizzano due informazioni fondamentali, giusto? Tutti questi sistemi utilizzano principalmente due informazioni. La prima è l'informazione legata alla posizione, e questa arriva da una rete satellitare normalmente. La seconda, informazione è quella legata alla distribuzione di questi dati verso un centro remoto. Quindi diciamo che i due tasselli per la comunicazione in questo caso sono il modulo wireless per restituire, per comunicare le informazioni a questa centrale, e dall'altra parte un sistema per ricevere i dati di posizione, quindi dai satelliti. In modo particolare voi avete ricevuto dal Ministero dello Sviluppo Economico un finanziamento di 44 milioni di dollari per sviluppare una piattaforma che si andrà ad inserire anche nei servizi e nelle applicazioni e-call, ma non solo, che sfrutta il sistema di posizionamento europeo Galileo. Sappiamo che l'Europa già da parecchi anni è impegnata nello sviluppo di questo sistema, che comincerà a diventare operativo dal prossimo anno, nel giro di qualche anno diventerà operativo in modo pieno. I primi segnali di Galileo sono stati ricevuti dalla centrale del Fucino qualche giorno fa e quindi gradualmente arriveremo anche ad utilizzare questo sistema. Questa piattaforma, naturalmente una piattaforma che prevede la ricezione del segnale molto robusto di Galileo e poi la comunicazione wireless a tutte le entità che in qualche modo necessitano di questi segnali. Spanghero, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buon lavoro e magari anche buone vacanze. A presto. Grazie mille anche a voi. Adesso, come sempre, le nostre Digital News selezionate durante la settimana. Digital News. Iniziamo da una notizia che arriva da Bruxelles. Uno studio della Commissione europea rivela che nel 2012 il 71% di tutto il traffico dati senza fili in Europa, quindi traffico wireless, è stato generato da smartphone e tablet utilizzando il Wi-Fi. 71% su Wi-Fi, il resto via rete cellulare mobile. una percentuale che potrebbe raggiungere il 78% entro il 2016, quindi domanda di Wi-Fi che cresce, e naturalmente stiamo parlando di Wi-Fi sia in ambito domestico, a casa propria, sia in ufficio, ma anche in ambito pubblico. L'Unione Europea è consapevole che per sostenere questa domanda crescente occorre mettere a disposizione uno spettro radio più ampio destinato appunto al Wi-Fi. L'Associazione Bancaria Italiana e l'Agenzia per l'Italia Digitale hanno firmato un accordo di cooperazione che permetterà a tutte le pubbliche amministrazioni, sia centrali che locali, di accedere ad una rete per far pagare ai cittadini servizi, tariffe, tasse online. Quindi non c'è più nessuna scusa per la pubblica amministrazione per metterci a disposizione i pagamenti online. Secondo la società App.me, che gli sviluppatori di applicazioni conoscono bene, nel secondo trimestre di quest'anno il negozio di Android, il Google Play Store, ha superato per la prima volta in termini di app scaricate l'App Store di Apple. Considerata la quota di mercato di Android, non è certo un gran risultato, il che significa che molti che hanno uno smartphone Android o non scaricano proprio nulla o lo fanno molto poco. Un altro dato interessante è quanto si guadagna, cioè quanto guadagnano gli sviluppatori. I ricavi dell'App Store di Apple sono 2,3 volte superiori rispetto a quelli del Play Store di Google. Da lunedì alcuni modelli di iPhone e di iPad assemblati in Asia non potranno più essere importati e venduti negli Stati Uniti per decisione della International Trade Commission, che alcune settimane fa ha dato ragione a Samsung sulla violazione di un brevetto. Si tratta di alcuni modelli di vecchi prodotti ma ancora venduti negli Stati Uniti, ma la cosa importante è il principio che si afferma, perché la diatriba riguarda un brevetto che alcuni senatori americani ritengono sia tra quelli da considerare essenziali e che per legge dovrebbero essere concessi a prezzi ragionevoli, equi e non discriminatori. Altri due capitoli della battaglia legale tra Apple e Samsung andranno in scena il 9 agosto. Quindi avremo tempo per riparlarne. Adesso parliamo del servizio di storage online di Microsoft, quello che si chiama SkyDrive, che cambierà nome. Allora, si tratta di un servizio cloud, e visto che cloud significa nuvola, il nome SkyDrive, dove sky significa cielo, aveva molto senso in questo contesto in cui va molto di moda il cloud computing. Allora, peccato che la pay TV via satellite del gruppo Murdoch BSkyB, britannica, ha fatto causa. Il giudice ha dato ragione alla società di Murdoch, le due aziende hanno raggiunto un accordo, quindi Microsoft non ricorrerà e ha accettato di cambiare il nome a questo servizio in tutto il mondo. Pensate un po'. Il successo in termini di utenti dei servizi di musica in streaming al momento non è ancora bilanciato dagli utili. Ad esempio, il servizio più noto, cioè Spotify, ha raddoppiato i ricavi nel 2012 toccando quota 576 milioni di dollari, ma ha registrato nuovamente una perdita che è salita a 77 milioni di dollari. Su 20 milioni di utenti solo 5 pagano un canone, mentre gli altri utilizzano la versione gratuita con pubblicità. Ancora una notizia di Microsoft, che ha lanciato l'applicazione di Office anche per Android dopo quella per iOS. In questo modo gli abbonati a Office 365 potranno utilizzare i vari programmi anche sullo smartphone Android. E così concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre grazie per la vostra attenzione. Ci trovate anche su internet www.radio24.it. Attraverso il servizio podcast potete avere direttamente sul vostro device, sul vostro terminale mobile, quindi smartphone, tablet o anche sul vostro computer, il file MP3 della nostra trasmissione. Ci trovate anche su molte delle piattaforme che distribuiscono podcast. Io sono Enrico Pagliarini, appuntamento alla prossima settimana. 2024. 2024. 2024. 31 seconds in.